perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Sniffavano e spacciavano prima della partita, maxi inchiesta e molti arresti tra gli ultra dell'Atalanta, obbligo di dimora per il figlio del procuratore di Brescia. 6 anni dalla guerra in Siria, 6 milioni di bambini nel paese, 1 su 4 rischia danni mentali irreparabili, denuncia Save the Children. Terremoto e maltempo, allevatori in piazza per chiedere aiuti al governo, 10.000 gli animali morti per il freddo e le scosse. Valanga su una pista in Francia, ci sarebbero molti sciatori rimasti sotto, ma a quanto pare non ci sono vittime. La città di Napoli si prepara ad accogliere questa sera il match contro il Real Madrid, sfida quasi impossibile, ma qualcuno spera. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp che poi più avanti leggeremo. C'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale poi andremo in diretta durante il nostro giro per l'Italia. Apriamo come sempre però la giornata con la nostra cavalcata tra le notizie, iniziando dall'operazione di questa mattina che ha coinvolto molti ultra dell'Atalanta. Sentiamo. Le torce contro la polizia che cercavano di fermare l'assalto ad un pullman di tifosi interisti, le cariche in pieno centro città. L'inchiesta della Procura di Bergamo ha delineato i contorni degli scontri e non solo di quel 16 gennaio 2016 al termine della partita Atalanta-Inter. Il modus operandi documentato dalle videocamere di alcune frange della curva nord: riempirsi di cocaina, incappucciarsi e poi attaccare la tifoseria avversaria. Coinvolto anche il figlio del procuratore capo di Brescia, Buonanno, nell'inchiesta che ha messo in luce anche rapine, tentativi di estorsione ed una spedizione punitiva per il recupero crediti. Luigi Rinella, direttore seconda divisione dello SCO. Un gruppo organizzato che aveva messo in atto attorno allo stadio, ma non soltanto, anche nel mondo della movida bergamasca, una serente attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, ma anche marijuana, droghe sintetiche. Erano due locali proprio prospicienti lo stadio, per cui prima di recarsi allo stadio si poteva acquistare sostanza stupefacente all'interno di questi bar per poi consumarla prima della partita o durante la partita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vogliamo occuparci come seconda notizia però di un tifo molto più gioioso, è quello di Napoli che si prepara ad accogliere la partita contro il Real Madrid. Della parte sportiva parleremo più avanti, ovviamente alle 14 in tutti i convocati, nemmeno a dirlo. Qua ci occupiamo di quello che sta succedendo in città, delle aspettative dei tifosi. Carmelo Presti Simone, buongiorno. Buongiorno Simone. Vai. Guarda, entusiasmo tantissimo. Noi abbiamo presidiato stamattina, appunto, con i nostri microfoni, con i microfoni di Radio 24, la zona della stazione centrale, Piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli, nel cuore della città. 300-400 agenti che presidiano l'area, questa piazza vastissima. Non è successo niente, i tifosi del Napoli, anche molti venuti stamattina, che hanno raggiunto la città stamattina da paesi stranieri, da paesi esteri, insomma. Abbiamo anche incrociato i tifosi che venivano da Malta, li abbiamo intervistati. Naturalmente l'entusiasmo è tantissimo per questa partita che ricorda quella di 30 anni fa, quando nel Napoli di 30 anni fa, guidato da Ottavio Bianchi, c'era Diego Armando Maradona. Il Napoli uscì al primo turno, allora si chiamava Coppa dei Campioni, non Champions League come si chiama oggi, 2-0 a Madrid in un Bernabeu deserto, isolato, perché insomma non c'era la possibilità di seguire la partita. Napoli invece al San Paolo 1-1 con un gol di Francini. Questa volta impresa decisamente più difficile, perché il Real ha vinto al Bernabeu 3-1, il Napoli deve vincere 2-0 oppure con 3 gol di scarto se i madrileni ne fanno uno. Abbiamo sentito i tifosi, l'entusiasmo, la speranza, scaramanzia tra scaramanzia, come puoi immaginare, che è tantissima, e sogno c'è, è evidente, visibile, sentiamoli. Da Bologna, sono partito stamattina alle 8, sono arrivato una mezz'oretta fa. Che partita sarà? Che partita prevede? Immagino che sia una partita difficile da portare a compimento, però con un gol nella prima mezz'ora c'è la possibilità di poter avere una speranza. Vabbè, è difficile che non riusciamo a prendere un gol dal Real Madrid, però se riusciamo a giocare in casa con l'affetto dei tifosi, noi ce la possiamo fare, se il Napoli gioca tranquillo. Diciamo, se la può giocare, può andare fino in fondo combattendo, però mettendo il cuore per l'amore della maglia e l'amore del popolo napoletano. Perdere eventualmente con il Real non è un reato. Diciamo così, è con la Juventus che fa male. 2-1 per il Napoli. Per te? 3-1 per il Napoli. Restiamo a Napoli per venire però a questioni più serie. C'è un'indagine importante sulla fornitura di materiale ad un ospedale. Sentiamo. Corruzione e turbativa d'asta a discapito della collettività, sì, ma soprattutto di malati oncologici e di una sanità in ginocchio. Si potrebbe sintetizzare così l'esito dell'indagine che riguarda l'Istituto dei Tumori Pascale e che ha portato la Guardia di Finanza di Napoli ad arrestare 7 persone, tra cui il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, Elia Abbondante, il primario Francesco Izzo e la moglie. Secondo quanto emerge dal lavoro coordinato dalla Procura di Napoli, i coniugi avrebbero creato società di intermediazione per vendere in via esclusiva prodotti per le cure antitumorali ritenuti unici ed infungibili, essenziali per l'ospedale. In accordo con case produttrici erano diventati unici fornitori dei dispositivi medicali che venivano acquistati con trattativa privata e senza possibilità di procedere a gara pubblica, ovviamente con costi maggiorati. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ed è da Napoli, come sapete, che è partita l'inchiesta che sta scuotendo la politica italiana in queste ore. Gli aggiornamenti sulla vicenda Consip con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Alfredo Romeo continua nella linea del silenzio, si avvale della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Attraverso gli avvocati fa sapere di non aver mai conosciuto Tiziano Renzi, l'imprenditore in carcere dal 1 marzo scorso, con l'accusa di corruzione nella maxi inchiesta sugli appalti Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Nella memoria presentata respinge le accuse e si descrive come una vittima nel meccanismo di affidamento degli appalti che, a suo dire, lo stava danneggiando a favore di alcune coop rosse. Gli avvocati presentano poi istanza di scarcerazione. Nel frattempo la vicenda si intreccia con il congresso PD. Appello di Sale e Chiamparina a Matteo Renzi a cambiare, ad essere più derogante. Riconosciamo i meriti, le capacità, la volontà riformista, ma è chiaro che ci attendiamo un cambiamento. Non è necessario che premier e segretario siano la stessa figura, dicono poi il sindaco di Milano e il presidente della regione Piemonte. Dal canto suo Renzi concede un'intervista al nostro giornale Il Sole 24 Ore e dice sì ad una commissione d'inchiesta sulle banche perché il mondo del credito dovrà cambiare ancora e la rivoluzione digitale trasformerà il modello di business. A te Simone. E grazie dunque alla nostra Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo al fronte economico. Ci sono dati tanto dell'Istat quanto dell'Ocse di questa mattina. Vincenzo Miglietta, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno. Dati importanti che arrivano soprattutto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Partiamo da un quadro generale. Simone, la crescita globale, spiega l'Ocse, dovrebbe accelerare un po', ma rimane troppo lenta a causa dei rischi in grado di deragliare la ripresa, fra cui la sconnessione fra i mercati finanziari e l'economia reale, la svolta nel ciclo dei tassi di interesse e le incertezze sulle politiche economiche e commerciali. Nell'eurozona, si legge sempre nel rapporto Ocse, c'è spazio di manovra invece per iniziative di bilancio più ambiziose ed efficaci, anche se la crescita continuerà all'attuale tasso moderato. Per quanto riguarda il nostro paese, la crescita resterebbe stabile, ma con un ritmo tra i più bassi tra i cosiddetti paesi big, presi in considerazione dall'Organizzazione di Parigi. Più 1% annuo allora nel triennio 2016-2017-2018. L'Istat guarda intanto ai prossimi mesi e parla di prospettive di moderato miglioramento dell'attività economica in linea con la tendenza attuale. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque al nostro Vincenzo Miglietta e, visto che siamo sull'economia, ci spostiamo a Ginevra per il Salone dell'Auto all'indomani dell'annuncio dell'acquisto di Opel da parte di PSA. Oggi è stata in realtà la giornata di Sergio Marchion. Andrea Malan, Il Sole 24 Ore, inviato a Parigi, a Ginevra. Andrea, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti, mi hai rubato l'attacco. Sì. Oggi è la giornata di Sergio Marchion. Perché so che ieri in viaggio tra Parigi e Ginevra, non a caso, insomma, ecco. Sì, quindi... sì, ho seguito la presentazione dell'operazione Peugeot Opel e ovviamente da questo è partita anche la conferenza di Marchion. gli è stato chiesto appunto il consolidamento, sappiamo che lui ha sempre sponsorizzato la necessità di un consolidamento e ha cercato invano di sposarsi proprio con GM, che lo ha sempre rifiutato, metaforicamente parlando. Dunque oggi Marchionne ha ribadito che GM resta il suo partner ideale, perché nonostante abbia venduto la Opel, questo ha ridotto, ha detto, un pochettino l'appetibilità, perché ha privato la possibilità di fare delle sinergie in Europa. Ma siccome il grosso del business sia di GM che di Fiat Chrysler è negli Stati Uniti, è da lì che dovrebbero arrivare i maggiori risparmi e quindi la convenienza economica di un'operazione del genere. Ovviamente, parlando dell'atteggiamento di GM, ha detto dell'ipotesi che venga riaperta, riaperta una porta, ha detto in realtà la porta non è mai stata aperta di fatto, quindi è difficile parlare di riapertura, quindi attende a vedere cosa farà GM. In compenso ha buttato un po' lì un'ipotesi Volkswagen. Sappiamo che Volkswagen è un altro dei partner preferiti di Marchionne per le sue dimensioni, anche per comunque una situazione geografica e di modelli e di gamma prodotto completamente diversa da GM. Marchionne ha detto che Volkswagen sarà quella più impattata dalla fusione Peugeot-Opel, perché si vede arrivare un concorrente molto vicino sul mercato europeo. Se si unisse con noi in Europa avrebbe una quota vicina al 30%, e quindi sono sicuro che prima o poi Volkswagen verrà a bussare alla nostra porta, dove il prima o poi probabilmente vuol dire quando Volkswagen avrà risolto i suoi problemi col Dieselgate e la sua ristrutturazione. Una seconda notizia importante da Marchionne è arrivata per quanto riguarda l'Alfa Romeo. Marchionne ha in sostanza confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul fatto che allo stabilimento di Pomigliano d'Arco tornerà prima o poi un Alfa Romeo e la Panda, la produzione della Panda, verrà invece spostata in Polonia. Questo non succederà prima del 2019-2020, ma è una notizia significativa e rientra nella strategia che sappiamo Marchionne ha avviato da anni di concentrare sugli stabilimenti italiani la produzione di Alfa e Maserati per garantirne la sostenibilità di lungo periodo. Ovviamente il punto fondamentale qui è vedere quanti modelli Alfa verranno lanciati e quale successo avranno sul mercato, appunto per poter sostenere tutte le fabbriche italiane. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Ci spostiamo in Siria. Oggi sono 6 anni dall'inizio della guerra. Sono passati 6 anni da quando la guerra ha inghiottito la Siria, una guerra nata dalla primavera araba, una guerra diventata sempre più internazionale, o forse è stata tale fin dall'inizio. Migliaia di morti e migliaia in fuga, e tanti bambini che ancora vivono sotto i bombardamenti, poco meno di 6 milioni. La metà di loro non ha conosciuto altro che conflitto. Secondo la ricerca di Save the Children, un bambino su 4 rischia conseguenze devastanti sulla salute mentale. La paura delle bombe è la più forte, la racconta Iya, consulente psicosociale nel sud del paese. Lo stress provocato dalla paura fa perdere ai bambini la capacità di parlare. A volte l'unico modo che hanno per esprimersi è gridare, e continuano a gridare. La guerra li ha fatti crescere prima del tempo. Invece di giocare, imbracciano armi. Invece di andare a scuola, devono imparare a sopravvivere. Bambini arruolati anche a 7 anni, bambine costrette a matrimoni precoci. I bambini feriti ieri sono oggi adolescenti spesso alla ricerca di droghe. Ci sono anche bambini che raccontano di sognare di morire per poter andare in paradiso e avere un posto dove poter mangiare, o di sperare di essere colpiti dai cecchini per poter arrivare in ospedale. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi in piazza a Montecitorio gli allevatori colpiti dal sisma e dall'ondata di maltempo, 10.000 gli animali morti dall'inizio della crisi, secondo Coldiretti. Al microfono di Chiara Piselli, alcune delle persone arrivate oggi in piazza. Quelle che ci hanno promesso sono solo chiacchiere. A noi ci servono degli aiuti, ma immediati, perché se questi aiuti non sono immediati, praticamente perderemo anche il nostro capitale, perderemo gli animali. Una volta che abbiamo perso gli animali non ci serve più nulla. Io sono un produttore del comune di Cambri, provincia di Teramo, e ho avuto col terremoto 2 crolli di 2 strutture di stalle, ed oggi ho 51 mucche da latte da fuori, allo stato brado, se ne sono morti 6. Per l'istituzione che è l'Italia, purtroppo l'Italia funziona in questo modo, non sono ancora riusciti a montare i telonati. L'ispettorato agrario c'ho l'ok, adesso ci manca la firma del genio civile di Teramo che prolunga di giorno e vai a collassare con il mancato reddito che si aumenta giorno per giorno. Il problema vero è che quando arriveranno i fondi ormai sarà troppo tardi per le aziende che chiuderanno. La cronaca dalla Francia, dove una valanga ha investito molti sciatori, a quanto pare non ci sono vittime. Una valanga su una pista da sci, la Carline, che si è battuta per la seconda volta su un percorso battuto nella stessa zona in meno di un mese e sull'unico tracciato aperto in una giornata di bufera di neve. Non ci sono vittime questa volta nella stazione sciistica di Tigno nella Savoia francese, ma non sembra più bastare il consiglio di non sciare fuori pista, soprattutto in questo periodo di clima variabile. Paura per le decine di sciatori investiti e non travolti, evacuati con pesanti difficoltà per la scarsa visibilità che ha impedito agli elicotteri di atterrare. I soccorritori sono arrivati sulla pista a piedi. L'allerta era stata lanciata dalle forze dell'ordine poco dopo le 10, zona subito chiusa. Lo scorso 13 febbraio, sempre qui, una massa di neve su una pista da sci aveva travolto e ucciso 4 persone, 3 turisti e la loro guida. Rimane quindi il nodo della prevedibilità. Il rischio di valanghe mattinata nella stazione di Tignes era di 4 su 5. Bastava poco. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, che faremo come sempre, come è diventata una tradizione, da 3 giorni ma è diventata una tradizione, anche in diretta sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, www.facebook.com/effettogiorno, che è anche il luogo sul quale potete commentare, oltre che scriverci al 349-238-6666 via sms o whatsapp. E inizieremo da Prato, 2013, lo ricorderete, il rogo nel quale morirono 7 persone in una fabbrica dormitorio. A quanto pare le cose non sono cambiate di molto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della maxi inchiesta che ha riguardato gli ultras dell'Atalanta, della guerra in Siria, degli allevatori in piazza, quelli colpiti dal terremoto e dal maltempo, della valanga su una pista in Francia e della città di Napoli che si prepara ad accogliere questa sera il match contro il Real Madrid. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo dalla Toscana e da Prato, per essere esatti. Lo ricorderete, era il dicembre del 2013 e più o meno ce l'abbiamo stampato tutti in testa come vicenda, perché è stata una vicenda paradigmatica di quello che succedeva in quelle zone. Un rogo in una fabbrica dormitorio, come viene definita, una fabbrica nella quale dormivano appunto e lavoravano decine di operai cinesi, 7 vittime e 2 persone ustionate. Da quel momento si è promesso molto e non sappiamo quanto effettivamente si è fatto, se succedono cose come quelle che vediamo adesso, un'operaia cinese morta in un capannone sempre a Prato, e parte una nuova inchiesta su un'altra fabbrica dormitorio, un'altra fabbrica, un altro luogo del quale probabilmente molti sono a conoscenza e sul quale però non si fa nulla, un po' se volete per certi versi come quello che abbiamo visto avvenire a San Severo, nel granghetto di Rignano. Alessandro Fabrizi è il segretario della CGIL di Prato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, io la chiamo soprattutto per avere dare un quadro della situazione, perché come dicevamo dal 2013, e quindi parliamo ormai di 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, tanto si è detto, tanto si è raccontato che, di quello che si sarebbe fatto, di un maggiore controllo di filiera, di una maggiore presenza anche delle forze dell'ordine, di controlli all'interno delle fabbriche, eppure di vicende come questa a Prato continuano ad arrivarne. Che succede? Cosa succede? Succede che naturalmente il fenomeno, il problema, l'aberrazione, quella che è la condizione di lavoro nelle aziende cinesi continua ad essere d'allarme rosso, anche se naturalmente l'ultima vittima, questa lavoratrice cinese che è stata trovata priva di vita all'interno di un bagno del luogo nel quale lavorava, fosse ascrivibile ad una condizione diversa. È evidente che poi ciò che è venuto fuori, e ahimè non è una novità per queste latitudini, è quella di una condizione della fabbrica in cui era presente comunque una promiscuità tra abitazione e laboratorio, in cui sono comunque, trovano conferma quelle precarietà, quelle condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, e quindi inevitabilmente scatta la denuncia dell'imprenditore cinese, anche stante quella che era la natura della vittima, quindi una clandestina nei confronti dell'impresa. Continua ad essere una condizione appunto estremamente gravosa, però rispetto a quel tragico primo dicembre 2013 delle iniziative soprattutto sul fronte istituzionale sono state attivate, se penso al piano lavoro sicuro della regione Toscana. Da allora, anzi dal settembre 2014, attraverso il reclutamento di un drappello di oltre 70 tecnici della prevenzione, sono state controllate ad oggi, e appunto questo programma dovrebbe terminare entro il mese corrente, oltre 7.700 aziende. Quindi il segnale c'è, quello che voglio dire è questo: la risposta alle istituzioni effettivamente, Fabrizi, c'è stata, ed è stata, da quel che mi sembra che dica lei, anche una risposta potente. Poi è chiaro, insomma, che questi sono problemi che si accumulano per un tale numero di anni che non si possono risolvere in due mesi, evidentemente. Assolutamente no, però si stanno vedendo gli effetti di questo controllo. È luogo comune dire che la cultura della prevenzione e della sicurezza, non a caso, come dire, è difficile imporla, ma va generata, va creata, e soprattutto la vastità e le dimensioni del problema sono tali per cui il lavoro e l'attività, l'intervento deve passare necessariamente da una fase straordinaria ad una fase ordinaria, ma mi sembra che la volontà, in questo caso anche politica, almeno quella da parte della regione toscana, vada in questa direzione. È necessario anche, come dire, rimodulare quelli che sono i criteri di intervento, ovvero da un primo controllo, che era quello legato all'impiantistica, a naturalmente i controlli su quella condizione richiamata poc'anzi di promiscuità, ovvero dei dormitori abusivi, delle cucine abusive, dei macchinari irregolari, debba poi riguardare anche altri ambiti, quella dell'irregolarità nei rapporti di lavoro, sì, quella dell'evasione fiscale. Quindi, oltre a quello che è stato questo iniziale intervento, è necessario anche integrare attraverso, come dire, un gruppo interforze quelli che sono i controlli e l'attività che, ripeto, deve divenire ordinaria, perché sì, non è sufficiente un singolo passaggio, magari un intervento episodico, per arrivare a quello che vuole essere l'obiettivo, ovvero il rispetto della normativa, il rispetto delle condizioni di chi è chiamato lì a lavorare. Quindi il lavoro da fare è ancora un lavoro importante, è un lavoro che dovrebbe vedere comunque un attenzionamento speciale, vista la peculiarità del problema, e quindi anche quegli enti, quelle strutture sul territorio che ad oggi soffrono di carenza d'organico, e penso alla direzione territoriale del lavoro, penso alle stesse forze. Lei dice dovrebbero essere rafforzate sostanzialmente. Devono essere necessariamente rafforzate. Allora, solo risposta secca, Fabrizi, per favore. Mi sembra di capire da quel che ci dice che Prato, da questo punto di vista, stia iniziando a vedere la luce. Sì, no? Sì. Sono, come dire, chiamato all'ottimismo. E anche i dati, guardi velocemente, si passa da un 16% di aziende che al primo controllo risultavano irregolari a quella percentuale naturalmente tende a scendere, e quelle che si regolarizzano salgono all'84%, che provvedono a rimuovere quelle carenze che ho denunciato. Quindi in qualche misura questi dati sono positivi, ma bisogna tenere un livello di guardia estremamente alto. Questa è una condizione imprescindibile. La ringrazio. Grazie Alessandro Fabrizi, segretario della CGIL di Prato, per essere stato con noi. All'ascoltatore che ci scrive: il mondo va avanti e si intervistano ancora quelli del 68, che palle, i sindacati, eccetera eccetera. Guardi, non è che stiamo parlando di temi particolarmente alti o del sesso degli angeli, stiamo parlando del fatto che la gente muore nelle fabbriche e muore in una condizione di completa clandestinità, senza il controllo dello Stato sul territorio, come ci ha raccontato Fabrizi. servizi, evidentemente qualche segnale positivo sta arrivando. Patrizia Pomati è una professoressa della scuola media Pertini di Vercelli. Buongiorno Pomati. Buongiorno. E benvenuta. È grazie una scuola della quale forse avrete letto su qualche quotidiano, perché è una scuola che ha fatto un esperimento particolare. A un certo punto, professoressa Pomati, siete entrati e avete letto una circolare che era, come si potrebbe dire, una fake news un sì, po' forte, nella quale dicevate: da questo momento studenti stranieri e studenti italiani separati, così come apartheid, diciamo. Sì, così è stata una iniziativa che abbiamo voluto fare, quello che in didattichese si chiama il compito di realtà, no? Abbiamo creato questa simulazione. È per bello didattichese, me la rivendo perché bello, è bellissimo. Poi abbiamo fatto questa scelta, io, la mia collega Carolina Vergine e altre, abbiamo studiato a tavolino un po' questa simulazione. Abbiamo fatto arrivare questa circolare in classe. Prima di farla arrivare in classe abbiamo avvertito naturalmente i ragazzi stranieri, in realtà sì, erano quelli che avevano anche solo un genitore straniero, che ci sarebbe stata questa simulazione, perché li volevamo tutelare, non volevamo angosciarli più di tanto, e abbiamo chiesto loro di recitare un po' con noi la parte. Siamo rientrati tutti, sono arrivate le circolari, le abbiamo lette, e c'era una circolare per ogni ragazzo, a persona, con la firma della preside, quindi tutta una cosa fatta per benino. Mentre si stava leggendo questa circolare, in cui si diceva che i loro compagni avrebbero dovuto seguire le lezioni in un'altra aula da qui alla fine dell'anno, avrebbero dovuto fare un esame diverso per vedere appunto se avevano veramente imparato la lingua italiana e se avevano imparato tutto della cultura italiana, c'è stata davvero una grandissima sollevazione dei nostri ragazzi, che si sono veramente, molti hanno tirato fuori delle parole forti, hanno sentito addirittura... Cioè mi hanno insultato? No, quello assolutamente no. Però volevano sapere chi avesse scritto questa circolare, volevano sapere perché a questo punto della storia doveva arrivare in classe una cosa di questo genere, volevano sapere se era una cosa diffusa in tutta Italia, erano arrabbiati perché i loro compagni, dopo tutto erano compagni dalla scuola materna, erano persone con cui condividono veramente il quotidiano. Allora, i ragazzi, questo esperimento è stato fatto su 5 delle 6 nostre terze, sì, alcuni sono andati subito in aula, nell'aula che avevamo detto di raggiungere, alcuni compagni li hanno accompagnati, altri sono voluti andare dopo, alcuni hanno incominciato a telefonare alla preside per cercare di capire cosa fosse questa storia. Insomma, c'è stato veramente un atto di indignazione collettiva, una massa critica di un centinaio di ragazzi che hanno detto no a questa legge che hanno sentito veramente ingiusta. Bene. Dopo siamo usciti. Vabbè, ovviamente gliel'avete rivelato a un certo punto, gli avete detto: sì, guardate ragazzi. Assolutamente. No? Insomma, abbiamo rivelato e abbiamo ricongiunti, abbiamo fatto lavorare molto su queste emozioni, sul senso della storia, perché questa appunto era una parafrasi di fatto di quello che è successo nel 38. Eh certo, con le leggi razziali. Esatto, sì, abbiamo proprio riflettuto tanto su questo e su come si sono sentiti, su quello che hanno fatto e quello che avrebbero voluto fare. È una scuola in cui abbiamo potuto fare questo esperimento, perché in realtà questo è proprio una tappa di un lungo percorso, perché noi lavoriamo tantissimo su queste tematiche, sì, su questi valori. Abbiamo il nostro giardino dei giusti, ieri abbiamo celebrato la giornata dei giusti, abbiamo dedicato 2 nuovi alberi ai giusti che non hanno abbandonato delle persone che erano vittime dell'odio visto, razziale, sì, sì, religioso. Uno scrittore pedagogo polacco morto a Treblinka, sì, e poi uno studente di economia musulmano che nel luglio del 2016 morì nell'attentato dell'ISIS a Dhaka, per non lasciare sole le due amiche, quelli che avete considerato nuovi giusti. Allora io la ringrazio, grazie a Patrizia Pomati, professoressa della scuola media Pertini di Vercelli. Io vorrei capire qua, un ascoltatore scrive: Spezia, abbiamo finito di fare politica, e che politica c'è? È una storia di cronaca, ed è una bella storia di cronaca, abbia pazienza. Se una scuola dice facciamo l'apartheid e gli studenti si ribellano, io sono contento, a prescindere da come la pensi politicamente. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. E avevamo lasciato in sospeso una cosa importante, il nostro viaggio che stiamo facendo tra i comuni colpiti dal terremoto. Oggi, come avete sentito, ci sono stati gli allevatori in piazza che hanno dei problemi perché molte stalle sono state distrutte. Ieri avevamo lasciato in sospeso il sindaco di Tolentino. Torniamo da lui, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli, una maxi operazione contro gli ultras dell'Atalanta, maxi inchiesta, molti arresti, sniffavano e spacciavano prima della partita, obbligo di dimora tra l'altro per il figlio del procuratore di Brescia. 6 anni dalla guerra in Siria, 6 milioni di bambini nel paese, 1 su 4 rischia danni mentali irreparabili, lo denuncia Save the Children. Terremoto e maltempo, gli allevatori in piazza per chiedere aiuti al governo, 10.000 gli animali morti per il freddo e le scosse. Infine la valanga su una pista in Francia, ci sarebbero molti sciatori rimasti sotto, ma non ci sarebbero vittime. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, solo un paio di punti sugli ascoltatori, i molti che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 via sms, via whatsapp, oppure ci stanno scrivendo anche sulla nostra pagina facebook, sulla quale siamo ancora in diretta, www.facebook.com/effettogiorno. Nadia da Udine sulla storia degli insegnanti che hanno fatto questa simulazione di apartheid, per così dire, o come funzionavano le leggi razziali nel 38, dice grazie agli insegnanti e complimenti agli studenti e dice di essersi commossa. C'è un ascoltatore invece che dice, beh, invece di fare queste simulazioni idiote bisogna far didattica, ma insomma è un giorno, mezza giornata di scuola persa a fronte dell'insegnamento appunto di come funzionavano le cose nel 38. Infine ancora l'ascoltatore che è convinto di sapere esattamente come voto, lo sanno anche i sassi come la pensa politicamente, allora mi dica cosa scrivo io sulla mia scheda elettorale, deducendolo dal fatto che mi stanno sulle scatole i razzisti. Non lo so sinceramente, perché penso che dovrebbe essere una questione, come dire, insita nel fatto di essere democratici in assoluto e non democratici del partito. Giuseppe Pezzanesi, sindaco di Tolentino, torna da noi, buongiorno, eccoci di nuovo. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, un piacere. Allora, eccoci di nuovo. Innanzitutto le faccio subito una domanda che arriva da un ascoltatore, il quale dice che ha sentito la puntata di ieri, l'abbiamo sentita solamente per un minuto perché non avevamo tempo, e torniamo da lei e nel nostro giro tra i comuni colpiti dal sisma. Ci scrive, potete chiedere al sindaco se ci può dare riferimenti per acquistare i prodotti locali, perché ieri lei ne ha parlato riferendosi ad alcune persone che hanno organizzato un'iniziativa in questo senso, ci dà qualche idea di come si può fare? Sì, è un volentieri, è un progetto molto simpatico che è nato da una collaborazione tra ragazzi molto illuminati, diciamo così, dell'ambiente universitario e non, che hanno subito, vista la difficoltà, preso un locale che era disponibile in centro, proprio per stare vicino ai commercianti del centro, ai locali più tipici e ai prodotti anche più tipici della nostra terra, e hanno messo in piedi questa associazione che si chiama, attenzione, in dialetto marchigiano e maceratese, Daie Marche. Daie Marche, come per dire. Esatto. Il famoso il famoso marchio Daie Marche, ma esatto, dove non ci sono solamente i prodotti vostri, no? Esatto, sì. Daie Marche è stata un'invenzione che poi anche la notte di Capodanno sul palco di Canale 5 ha avuto un riconoscimento, ero anch'io con loro e quindi ci siamo voluti questi pochi minuti a questa grande serata di musica in cui appunto... Quindi guardi, facciamola semplice, senza dare indicazioni, cercate Daie Marche su internet e trovate tutto quanto. Ed è tutto fatto. Allora sindaco, ieri ci eravamo detti questo, problemi per i commercianti che forse anche via internet in qualche modo, almeno per quelli che si occupano di commercio, i prodotti tipici, almeno in parte si possono risolvere, ma soprattutto un paese, una cittadina sostanzialmente svuotata, e tempi che quali sono, sindaco? Ma guardi, intanto, come dicevo ieri, noi sotto il profilo emergenziale non abbiamo trascurato nulla, poi ecco, naturalmente questa è la fase più delicata, cioè la fase in cui si abbandona in un certo qual modo l'emergenzialità perché è stata curata, e quindi chi è in autonoma sistemazione negli appartamenti presi in affitto in altre città o nella stessa Tolentino con abitazioni antisismiche, chi invece è ancora in località turistiche, chi è nei nostri moduli, nei tre comparti dove abbiamo cercato di rendere la vita più agevole possibile, considerando che sono dei moduli, quindi abbiamo messo per ognuno la presa TV in ogni ambiente privato, abbiamo, che non era previsto. Abbiamo messo un'area ludica, abbiamo installato un'area ludica per far giocare i bambini, sì. E abbiamo messo un'area informatica con i collegamenti internet. Quindi cerchiamo in ogni modo di rendere più agevole possibile la vita dei nostri cittadini. Poi naturalmente, ripeto, adesso l'emergenza sì. è sotto controllo e c'è la fase del completamento delle perizie agli sì. immobili, e che dovremo terminare entro il 31 di marzo, è un obiettivo che ci siamo posti, perché sono circa 4.000 strutture, per poi passare alla fase progettuale, alla validazione sì. dei progetti e alla vera ricostruzione. Sindaco sì. mi chiarisca una cosa. Sì. Molti suoi colleghi ci hanno detto: il problema qua sono le procedure burocratiche necessarie a mettere in piedi le perizie, anche solo le perizie, e poi naturalmente la ricostruzione. Da questo punto di vista, come vanno le cose? Beh, pensi che lei sta parlando con un sindaco che aveva uno dei più danneggiati sotto il profilo numerico, circa 4.000 immobili, e noi avevamo già fatto 2.750 perizie con gli stessi ingegneri, geometri e architetti dell'ordine, che per non aver fatto un corso di 2 ore, pensi, sotto l'egida della Protezione Civile, ci hanno invalidato tutte queste perizie, le dobbiamo fare ex novo. Quindi sostanzialmente questioni di burocratiche, a mio avviso, anche di lana caprina, che comunque ci fanno ripiombare nel caos e nel lavorativo, ovviamente, perché siamo estremamente lucidi, sappiamo quello che è necessario, quello che dobbiamo fare. Quindi noi adesso dobbiamo far lavorare non solo i nostri dipendenti anche il sabato e la domenica, ma abbiamo chiesto un rinforzo di unità, di squadre in assoluto, perché dobbiamo terminare questo lavoro entro il 31 di marzo, che in parte avevamo già fatto. Quindi questo ci ha lasciato sgomenti, ma questa è la burocrazia, ecco, lei immagini. Questo è, sindaco. Senta, io la ringrazio oggi, come dire, lo spazio mi sembra che sia stato congruo, però adesso dobbiamo veramente andare a chiudere e torniamo nei prossimi giorni a sentire altri sindaci, altre storie dal territorio, e magari torneremo anche da lei poi nelle prossime settimane, perché non è che ci fermiamo su questa vicenda. Adesso andiamo a chiudere in maniera un po' particolare, un po' diversa rispetto al solito, per una serie di questioni. Oggi chiudiamo qua la trasmissione, ci sarà il traffico, Mario Platero, e poi ci sarà GR24 alle 14, quindi si andrà a chiudere direttamente appunto con America 24 di Mario Platero. I ringraziamenti vanno a Valeria Bernardi in regia, Matteo Ramelli e Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, e tutti voi per l'ascolto, anche l'ascoltatore, un altro che sostiene, quindi tutti sapete esattamente come voto, che sono molto più a sinistra del Partito Democratico, con il 90% delle persone che normalmente anche sui social mi accusa di essere un terribile ultraliberista. Meglio così, per un giornalista questo è perfetto, se mi scambiano sia da una parte che dall'altra. Traffico, Platero, e noi ci risentiamo purtroppo per voi subito dopo il GR delle 17 con Focus Economia. Una buona giornata da Simone Spezia.